24, la storia. Signor Gorbaciov, apra questa porta. Signor Gorbaciov, abbatta questo muro. E la storia forse lo ricorderà così, come colui che ha contribuito a battere il muro di Berlino, a cambiare per sempre l'ordine mondiale dopo 40 anni di guerra fredda. Oggi su Mix24 prosegue il nostro racconto su Ronald Reagan, il 40esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Ieri ci siamo fermati all'81, quando Reagan inizia a mettere in atto una linea intransigente contro il comunismo, il nemico numero uno da battere, un vero impero del male, secondo Reagan. 1981. Reagan intravede un'opportunità storica di colpire al cuore l'impero sovietico. In Polonia, Solidarność organizza scioperi e manifestazioni per la libertà. Quando il governo polacco dichiara la legge marziale, Reagan decide di intervenire in appoggio a Solidarność. 7 giugno 1982. Reagan incontra Papa Giovanni Paolo II. Il Papa chiede alla Chiesa polacca di fornire a Solidarność una rete sotterranea di supporto. Reagan, da parte sua, impone sanzioni economiche e ordina alla CIA di minare il governo polacco e sostenere Solidarność. Una volta liberata la Polonia, il dominio sovietico crollerà in tutto l'est europeo. Ma l'America è impegnata anche in altre operazioni segrete molto meno pacifiche. In Afghanistan, Reagan continua la politica del presidente Carter, appoggia le fazioni in lotta con il regime imposto dai russi. In America centrale, la CIA addestra le truppe ribelli per combattere i sandinisti al potere in Nicaragua grazie al sostegno russo. I Contras divengono uno dei punti fermi della politica estera reaganiana. I Contras possono essere paragonati ai nostri padri fondatori o ai coraggiosi della Rivoluzione francese. Non possiamo dimenticarci di loro. Il grande comunicatore ha una dote speciale, quella dell'attore che sa subito entrare in sintonia con il proprio pubblico. In privato, però, Reagan è tutt'altro. A descriverlo sono i figli Patty e Ronald. Mio padre era molto timido ed emotivo. Di sicuro non era quello che appariva in pubblico. In tutta la mia vita non credo di aver mai davvero parlato con mio padre. Nel 1976 Ronald Prescott Reagan lascia l'università di Yale. Dopo 4 anni di duro studio diventa un ballerino professionista. Ricordo che una volta vennero a vedermi danzare. Alla fine Mike Deaver venne da me e mi disse: sai Ron, qualche giorno fa parlavo con tuo padre e mi ha detto: chissà se mio figlio si rende conto di quanto sono fiero di lui. Io lo guardo e gli rispondo: vuoi dirmi che ha delegato te per venirmi a dire questo? A me personalmente non l'ha mai detto. Insomma, Mike Deaver aveva avuto il compito da mio padre di venirmi a dire quanto lui fosse fiero di me. Lui avrebbe avuto difficoltà ad esprimerlo. Nel 1982 molti in America cominciano a pensare che la corsa al riarmo di Reagan sia una pura follia. In tutto il paese si costituiscono vari gruppi di opinione che chiedono il congelamento della produzione nucleare. La crociata di Reagan è contro il comunismo. Il movimento, invece, è contrario alle bombe atomiche. Lo scienziato Carl Sagan avverte: l'uso sconsiderato delle bombe condannerebbe la Terra ad un inverno nucleare. Un evento molto probabile, secondo gli avversari di Reagan, se chi a Berkeley mandò le baionette disponesse di un numero sempre maggiore di ordigni. Numerose sono le voci che si levano contro il riarmo, come quella di Robert McNamara, ex ministro della difesa, ed Edward Kennedy, senatore del Partito Democratico. Il confronto tra Patto di Varsavia e NATO si è fatto sempre più serrato. Sono aumentati gli armamenti. Si sente sempre più spesso parlare della necessità di nuovi piani per combattere e vincere guerre nucleari. Per me si tratta solo di follia, di un'assurdità. Mi rifiuto di accettare l'assurda teoria secondo la quale se oggi costruiamo più bombe nucleari, domani ne avremo meno bisogno. Primavera 1982. Il movimento di protesta contro la corsa al riarmo è ormai una realtà tangibile. Il Congresso promulga una risoluzione per il congelamento degli armamenti. Il 12 giugno un milione di americani si dà appuntamento a Central Park per inviare un preciso messaggio a Reagan. Say a warm hello to Patty Davis. Anche la figlia di Reagan, Patty Davis, ha fatto il suo ingresso ufficiale nel movimento nel 1981, nella cosiddetta Domenica della Sopravvivenza, all'Hollywood Bowl. We have a choice. Le mie motivazioni erano quelle di tutti, ma io non ero uguale a tutti. Mio padre era il capo della Casa Bianca. Insomma, io quel giorno ero lì per prendere la parola in difesa della pace. Oggi ritengo che per difendere la pace, la cosa migliore per me quel giorno sarebbe stata rimanere a casa. Perché alla fine quello che comunicavo stando lì quel giorno è che ero in guerra con mio padre. Bentornati a Mix 24. Nonostante vi siano numerosi punti di disaccordo tra Ronald Reagan e gli attivisti dei movimenti contro il riarmo, il presidente degli Stati Uniti condivide con loro il terrore per le armi nucleari. Ronald Reagan ha in mente un Armageddon, la profezia biblica sulla fine del mondo. Sentiamo Michael Deaver, vice capo staff di Reagan. Più di una volta l'ho sentito parlare della battaglia finale, della fine del mondo. Penso che Reagan credesse davvero a tutte le profezie del libro dell'Apocalisse. Per lui, ad esempio, i carri armati rappresentavano i cavalli di ferro di cui parla San Giovanni. Secondo lui non c'era differenza. Insomma, secondo Reagan, quelle descrizioni erano la profezia di quello che sarebbe accaduto se noi non avessimo fatto nulla per fermarlo. Mi rivolgo alla comunità scientifica del nostro paese, a quanti ci hanno fornito i mezzi per costruire le armi nucleari affinché indirizzino il loro enorme talento verso la causa della pace, affinché ci forniscano il mezzo per rendere queste armi nucleari impotenti e obsolete. Vorrei sognare insieme a voi una visione del futuro ricca di speranza. Vorremmo iniziare un programma che sia in grado di opporsi alla terribile minaccia missilistica sovietica attraverso misure solo difensive. Per Ronald Reagan la difesa resta un imperativo morale e prioritario. Ma per coloro che devono realizzarla invece è un compito estremamente difficile. Reagan immagina satelliti nello spazio con laser guidati da computer in grado di intercettare i missili nemici. E lo scudo spaziale per la comunità scientifica è solo una fantasia di un ex attore di Hollywood. Ok, Aidon, focalizzate quel proiettore ad inerzia su di loro e fateglielo arrivare. Nel 1939 Reagan ha interpretato un film di fantascienza intitolato Murder in the Air. Il proiettore ad inerzia è uno strumento per inviare onde elettriche in grado di paralizzare le correnti dirette e alternate alla loro fonte. Un proiettore ad inerzia non solo renderà gli Stati Uniti invincibili in tempi di guerra, ma promette di essere la forza più potente mai scoperta in tempi di pace. Credo che Reagan vedesse lo scudo spaziale come uno strumento di pressione sui russi, come un modo per impaurirli, ed aveva ragione. Al di là del suo valore pratico, di certo fu una sfida precisa lanciata ad un impero che era in un momento di grande crisi, e non solo economica. Ascoltiamo Alexander Beznernik e Pavel Palashenko, due funzionari di Gorbachev. La nostra prima reazione fu di paura. Credo che i nostri fossero davvero impauriti da quel programma. Beh, quel piano dimostrò che per l'Unione Sovietica, per la nostra inferiorità tecnologica, era di fatto impossibile. Possibile competere con gli americani in quel campo. Ma lo scudo spaziale si rivela invece un progetto di ricerca dai costi esorbitanti. Reagan dunque deve accantonarlo e per il momento deve occuparsi di un'altra minaccia più immediata, le centinaia di missili mobili che la Russia ha dispiegato nei paesi dell'est pronti a distruggere l'Europa occidentale nel giro di pochi minuti. Il ministro della difesa americano Caspar Weinberger, che pure è un falco dell'amministrazione Reagan, suggerisce di arrivare a un accordo. Se Mosca eliminerà tutti i missili, la NATO rinuncerà a metterne di nuovi. E la cosiddetta opzione zero. A parlarne il ministro della difesa Kaspar Weinberger e Sergei Tarasenko, funzionario di Gorbaciov. Reagan disse che l'opzione zero gli piaceva. Ripresi la parola e gli dissi: signor Presidente, tutti le diranno che i sovietici non accetteranno mai una proposta come questa. Proporla significherebbe non avere nessuna possibilità di giungere a un accordo. Nessuno prese davvero sul serio l'opzione zero. Non scherziamo. Speravamo di arrivare ad un accordo, questo sì, ma un accordo che prevedesse lo smantellamento solo di alcuni dei nostri missili. Il nostro scopo era dividere l'Europa dagli Stati Uniti. I russi sanno come sfruttare i timori degli europei. Il vecchio continente, che pullula di testate nucleari, teme la guerra atomica. I movimenti antinucleari moltiplicano le loro manifestazioni in tutta l'Europa. E se questi movimenti ottenessero ciò per cui marciano, la NATO, che da più di 30 anni costituisce un baluardo contro l'avanzata sovietica, potrebbe andare in pezzi. 7 giugno 1982, al culmine della crisi della NATO, Reagan arriva in Inghilterra. Così il discorso alla Camera dei Comuni di Londra, l'8 giugno 1982. Si tratta di un progetto, una speranza a lungo termine. La marcia inarrestabile della libertà si scrollerà di dosso il marxismo e il leninismo, consegnandoli alla pattumiera della storia, come il genere umano si è già liberato degli altri tiranni che opprimevano i popoli. Ascoltiamo Margaret Thatcher. La pattumiera della storia. Hitler è stato consegnato alla pattumiera della storia. Con questa espressione Reagan ha voluto far capire che questo è il destino di ogni tiranno. Venir consegnato alla pattumiera della storia. E io sono assolutamente d'accordo con quanto lui ha detto. Reagan predica il suo Vangelo di libertà per il mondo, aumenta le spese per la difesa, ma evita di dialogare con i russi. Eppure sa che prima o poi sarà costretto a farlo. Febbraio 1983, il segretario di Stato George Shultz chiede a Reagan se desidera incontrare l'ambasciatore sovietico Dobrin. Con Dobrin, Reagan affronta la questione dei diritti umani, chiedendogli di intervenire in favore di alcuni russi dissidenti e cristiani che ormai da 5 anni vivono al piano terra dell'ambasciata americana a Mosca. Alcuni mesi più tardi avranno il permesso di lasciare l'Unione Sovietica. Così il segretario di Stato americano in quegli anni, George Shultz. L'accordo era: noi li lasceremo andare, ma voi non dovete rendere pubblica la notizia. E Reagan non si è mai fatto scappare una sola parola. L'accordo ci fu. Era il primo tra Russia e America, ma non fu mai reso pubblico. Credo che la cosa colpì molto i sovietici, perché dimostrò loro che Reagan era di parola. Alcune settimane più tardi, Reagan si rivolge ad una folla di suoi sostenitori, membri della Chiesa evangelica. A parlare non è il politico, ma l'ideologo in procinto di dare il via ad una nuova crociata. Il Congresso sta per esprimersi sulla risoluzione per il blocco degli armamenti, che potrebbe mettere in serio pericolo il suo piano per dispiegare i missili in Europa. Reagan decide di intervenire. La corsa al riarmo non è solamente un gigantesco errore. Pensare questo significa astenersi dalla lotta tra il bene e il male. Noi dobbiamo essere coscienti del fatto che da una parte i sovietici predicano la supremazia dello Stato, dall'altra dichiarano l'onnipotenza di quello Stato su ogni singolo individuo e mirano al dominio globale. Sono il centro delle forze del male nel mondo. 1 settembre 1983. Alle prime ore del mattino, un aereo di linea coreano entra nello spazio aereo sovietico. Viene immediatamente abbattuto. Le vittime sono 269. Pochi giorni dopo, il settimanale Newsweek scrive: il mondo intero ha potuto constatare con i propri occhi di cosa è capace l'Unione Sovietica. Ora non potrà che schierarsi dalla parte di Ronald Reagan. È un grave fatto che mette l'Unione Sovietica contro il mondo intero. Un atto che va contro i principi dell'umana convivenza. Un atto di barbarie inaudita, commesso da una società che disprezza i diritti umani e che non ha alcuna considerazione della vita umana, che non si ferma di fronte a niente pur di espandere il proprio dominio. Reagan non usa mezzi termini. Ma quando Kaspar Weinberger propone di interrompere il dialogo sugli armamenti con i russi, lui resiste e dà ragione a Schulz, che invece è favorevole a non spezzare il filo del negoziato. Anche il Cremlino ricorre alla propaganda anti-Reagan. Il presidente degli Stati Uniti viene definito un nuovo Hitler e la stampa russa ne parla come di un folle. 20 novembre 1983. 100 milioni di americani sono incollati di fronte al televisore per The Day After, un TV movie che immagina gli effetti di una guerra nucleare su Lawrence, nel Kansas. Il film esce alla vigilia del dispiegamento di missili americani in Germania. Alla fine del film Reagan confida. Mi ha depresso enormemente. Ma neppure lo scenario tratteggiato da The Day After sembra in grado di fermare la determinazione di Reagan. La NATO decide di installare nuovi missili in tutta Europa, ma questa decisione segna naturalmente la fine di ogni negoziato con l'Unione Sovietica. I rapporti tra Mosca e Washington non sono mai stati così difficili. Io non credo che siamo vicini ad un conflitto, o perlomeno non lo siamo oggi più di quanto lo fossimo nel passato, un conflitto che ci possa condurre ad una guerra nucleare. Ma anche al Cremlino qualcuno teme le reali intenzioni di Reagan, come Sergei Tarashenko, funzionario di Gorbaciov. Il vice ministro degli esteri Kornienko mi chiese di andare nel suo ufficio e mi mostrò un documento del Politburo secondo il quale gli Stati Uniti avevano dei piani di attacco già pronti per colpire l'Unione Sovietica. La CIA informa Reagan che i russi temono un possibile attacco statunitense. Al suo consigliere per la sicurezza nazionale, Bud McFarland, dice: pensi davvero che credano a questa possibilità? Io non ci credo, ma dobbiamo rifletterci. Stavamo parlando e mi resi conto che Reagan era davvero angosciato. Si tirava indietro, poi si sporgeva in avanti, anche fisicamente. Si vedeva che era molto agitato. Parlò della possibile battaglia finale di Armageddon. Era terrorizzato che quel momento potesse verificarsi finché era in vita. Ma al tempo stesso era determinato a fare di tutto per scongiurare questa ipotesi. Dunque per Reagan si tratta di un periodo di grande difficoltà, ma il presidente americano ha anche qualcosa per cui essere soddisfatto. Dopo 16 mesi di recessione, nel 1983 finalmente l'economia americana dà segni di ripresa. Ripartiamo da qui, dopo la pubblicità. Bentornati a Mix24. Dopo i tagli alle tasse, la discesa dell'inflazione e gli interventi del governo, le cose sono finalmente migliorate. È l'inizio di un boom senza precedenti che durerà per altri 8 anni. Nel 1984, in piena campagna elettorale, il presidente Reagan può contare su una rinnovata fiducia nelle proprie possibilità che coinvolge tutto il paese. Tutto, insomma, sembra andare per il meglio, almeno fino al 1 agosto del 1984, quando Reagan, in un fuori onda per una prova a microfono, pronuncia queste parole. Bene, miei cari concittadini, è con soddisfazione che vi annuncio di aver appena firmato un atto che mette fuori legge la Russia una volta per tutte. Cominceremo a bombardare tra 5 minuti. Pronunciata davanti a un microfono acceso, questa gaffe è l'occasione che gli avversari di Reagan aspettano da anni. Il candidato democratico Walter Mondale ha gioco facile su quegli elettori preoccupati della linea dura di Reagan con i russi. Reagan si è opposto a qualunque accordo raggiunto da Kennedy, Johnson, Nixon, Ford e Carter per il controllo degli armamenti nucleari. A qualunque accordo. Ha condotto una folle corsa al riarmo sulla Terra e ora la vuole estendere allo spazio. Ottobre 1984. Reagan invita il ministro degli esteri sovietico Andrei Gromyko per una visita ufficiale alla vigilia delle elezioni americane. La più entusiasta è la moglie Nancy. Mi ha fatto molto male, dichiara, sentir descrivere mio marito per anni come un guerrafondaio. Andrei Gromyko venne da me e mi chiese: ma suo marito crede nella pace? Certo che sì, gli risposi. E allora lui aggiunse: bene, vuole essere così gentile da ricordarglielo all'orecchio ogni sera prima di dormire? E io lo farò, ma lo sussurrerò anche nel suo di orecchio. L'incontro aiuta a spuntare una delle armi principali su cui Mondale ha basato la sua campagna. Poi però, pochi giorni dopo, Reagan, ormai 73enne, commette un altro errore. Nel suo primo dibattito televisivo appare smarrito, confuso. Abbiamo la nostra forza militare, il morale è alto. Penso che la gente dovrebbe comprendere che 2/3 delle spese per la difesa vanno per gli stipendi. Sì, per gli stipendi e per le pensioni. Nancy è furiosa con lo staff del presidente. Il suo bersaglio è Richard Arman, cui attribuisce la colpa di aver sommerso Reagan con troppe informazioni. Lei è già il presidente più vecchio della nostra storia e nel suo staff alcuni sostengono che nel suo faccia a faccia con Mondale lei apparisse estremamente stanco. Il presidente Kennedy affrontò la crisi dei missili cubani dormendo pochissimo. Non le sorge il dubbio che in simili circostanze lei potrebbe non farcela? Assolutamente no, signor Truitt. Voglio anche informarla che non utilizzerò l'età come fattore determinante per la campagna elettorale. Non sfrutterò il fatto che i miei avversari sono giovani e inesperti. Dopo aver schivato con l'abilità di un attore consumato il fattore età, Reagan sconfigge il suo avversario Walter Mondale con il 59% dei voti. Ora davanti a sé Reagan ha altri 4 anni alla Casa Bianca. Saranno gli anni migliori della sua presidenza, ma anche i peggiori. Nel secondo mandato il presidente deve fare a meno dei suoi più fidati consiglieri che andranno a ricoprire cariche politiche nel suo governo. Il nuovo capo dello staff è Donald Regan. Poi nel giugno dell'85 il presidente Reagan si trova alle prese col terrorismo. La sua risposta metterà a repentaglio la sua stessa amministrazione. Stanno picchiando i passeggeri, stanno picchiando i passeggeri, minacciano di ammazzarli tutti. 14 giugno 1985. I terroristi palestinesi dirottano il volo TVA-847 e uccidono un passeggero americano. Ma questa crisi si risolve in fretta. Un'altra, al contrario, preoccupa moltissimo Reagan. 7 cittadini americani sono tenuti in ostaggio a Beirut. Sono stati rapiti dai seguaci dell'Ayatollah Khomeini, gli stessi che hanno già rapito i diplomatici americani in Iran all'epoca di Carter. Reagan sceglie la via della fermezza. Con i terroristi non si tratta. Vorrei essere estremamente chiaro con i criminali di Beirut e i loro complici, dovunque essi si trovino. L'America non farà alcuna concessione ai terroristi. 13 luglio 1985. Reagan viene operato per un cancro al colon. 5 giorni più tardi, il consigliere nazionale per la sicurezza Bud McFarlane gli sottopone un piano segreto. Secondo McFarlane, è giunto il momento di migliorare le relazioni con l'Iran, instaurando rapporti con quei moderati che potrebbero succedere a Khomeini. La strategia potrebbe anche essere utile per la liberazione dei 7 ostaggi americani. La reazione di Reagan fu positiva. Se c'è un modo di aprire un dialogo con i moderati, ben venga. Quando poi gli parlai della concreta possibilità di liberare gli ostaggi, fu naturalmente ancora più entusiasta. Il piano prevede anche l'invio di armi in Iran, una misura che Reagan più tardi negherà essere stata usata in cambio della liberazione degli ostaggi. Ronald Reagan ha sempre sostenuto che i sovietici sono maestri della menzogna e dell'inganno. Si è anche sempre opposto ad ogni accordo sugli armamenti stipulato dai suoi predecessori negli anni 70. Ma il 16 novembre 1985 Reagan è a Ginevra. Il presidente degli Stati Uniti è sicuro di poter gestire il nuovo leader dell'impero del male. È Mikhail Gorbachev, 54 anni, l'uomo nuovo del Cremlino. E il 16 novembre dell'85, quell'incontro tra Reagan e Gorbachev a Ginevra sta per cambiare il corso della storia. Al termine dell'incontro tra le delegazioni, Reagan dichiara: ho voluto ricordare a Gorbachev la lunga storia di aggressioni che contraddistingue la Russia. Gli ho spiegato perché il mondo libero ha buoni motivi per tenere alta la guardia contro il blocco sovietico. Fin dal nostro primo incontro, Reagan usò con me un tono da professore universitario, come se fossimo ad un processo e io fossi il principale indiziato. Ma io tagliai subito corto. Signor Presidente, lei non è il pubblico ministero e io non sono l'accusato. Lei non è un professore e tantomeno io sono uno studente. Erano le parole dello stesso Mikhail Gorbachev. Per allentare la tensione, Reagan propone a Gorbachev di incontrarsi in privato. Nel tragitto che porta al luogo dell'incontro in riva al lago, i due chiacchierano della carriera cinematografica di Reagan. È la prima volta che i leader dei due blocchi si trattano come normali esseri umani. Ascoltiamo Alexander Besmernik, funzionario di Gorbaciov. A Gorbaciov, Reagan piacque subito. Fu sorprendente. Penso che Gorbaciov apprezzasse delle doti di Reagan, in particolare la sua sincerità. Mentre fanno ritorno alle loro delegazioni, Reagan invita Gorbaciov a Washington. Gorbaciov risponde con un invito a Mosca. Quando Reagan lascia Ginevra, del trattato sullo scudo spaziale non si è fatta alcuna menzione. Su una cosa però i due leader si dicono d'accordo. Una guerra nucleare non potrà mai essere vinta e non dovrà mai essere combattuta. Il mondo tira un sospiro di sollievo. L'immagine di Ronald Reagan come di un cowboy dal grilletto facile comincia a dissolversi. 4 luglio 1986. Il prestigio di Reagan è al culmine. Il presidente sale sul ponte della nave John Kennedy e preme il pulsante che invia un raggio laser ad illuminare il porto di New York e l'immortale simbolo del sogno americano. In occasione del centenario della Statua della Libertà, l'America celebra il Liberty Weekend. Reagan mette in mostra quello che Time definisce il suo genio speciale per le occasioni americane, dando il via al più straordinario spettacolo pirotecnico mai visto negli Stati Uniti. Tutti noi ci impegniamo a difendere la causa della libertà. La causa che ha illuminato questa terra e ridato speranza al mondo intero. Ma i successi di Reagan non sono solo simbolici. In Polonia il governo del generale Jaruzelski accetta le condizioni poste da Reagan per mettere fine alle sanzioni e libera i prigionieri politici accettando Solidarność. In Afghanistan i ribelli armati degli americani hanno costretto i russi a ritirarsi. In Nicaragua, invece, le cose non vanno bene. Nel marzo dell'84 il Congresso americano taglia i fondi ai Contras e dichiara illegale il sostegno fin qui offerto dalla CIA. Intanto è arrivato il momento per incontrare di nuovo Gorbaciov. Ripartiamo da questo incontro dopo la viabilità. Bentornati a Mix24, è l'11 ottobre dell'86. A Reykjavik, in Islanda, Reagan incontra Gorbaciov per la seconda volta in un summit convocato in tutta fretta. Il leader sovietico ha molti problemi in patria, un accordo sugli armamenti è per lui indispensabile. Gorbaciov non può permettersi di gestire le riforme economiche e allo stesso tempo far fronte alle spese per la difesa. Deve convincere Reagan a smantellare gli arsenali. Gorbaciov pone sul tavolo l'offerta che Reagan spera di sentire da anni. Distruggiamo entrambi la metà dei bombardieri e dei missili a lungo raggio. Eliminiamo tutti i missili che minacciano l'Europa. Le delegazioni lavorano tutta la notte per dare forma alla proposta. La mattina seguente Gorbaciov insiste con la sua offerta e chiede di far seguire alla riduzione dei missili sovietici la limitazione della ricerca legata allo scudo spaziale. Reagan rifiuta. Il summit sembra fallito. Signor Presidente, ci sono stati dei progressi? La questione è ancora aperta. Vi incontrerete ancora? Sì. Ma i russi rilanciano e chiedono agli americani di fare una concessione. Gli americani accettano. Si atterranno al trattato per il bando dello scudo spaziale per 10 anni. Gli americani propongono anche che in quel lasso di tempo entrambe le parti si impegnino ad eliminare non la metà, bensì tutti i missili a lunga gettata. Reagan apprezza il coraggio di Gorbaciov. La controproposta di Reagan fu di eliminare tutti i missili strategici balistici. Gorbaciov andò oltre. E se eliminassimo tutte le armi nucleari, anziché procedere pezzo per pezzo? La delegazione americana chiese una pausa. Gorbaciov uscì dalla sala e ci andammo a sedere tutti insieme in una piccola stanza. Ci disse: se Reagan accetta, il mondo avrà un nuovo ordine. Per la storia sarà un cambiamento epocale. Reagan può finalmente realizzare il suo sogno di ridurre la minaccia nucleare, ma in cambio deve rinunciare a quello della difesa spaziale. Gorbaciov infatti insiste sulla necessità che la ricerca dello scudo spaziale resti nei laboratori e non abbia applicazione pratica. Così Richard Perle, all'epoca vice segretario della difesa americana. Allora Reagan si voltò verso Don Reagan e disse: Se accettassimo, non sarebbe forse solo per il prestigio di uscire da qui con un accordo in tasca? Ovviamente era una domanda retorica. Reagan aveva già deciso. Nel giro di pochi secondi il summit era finito. Qualunque presidente, di solito, cerca sempre di firmare trattati e arrivare ad un accordo. Tutti vogliono passare alla storia come grandi statisti, come coloro che hanno reso possibile la pace. Anche per Reagan fu molto difficile lasciare quella stanza senza una firma. Quando Reagan gli dice: «Sono ancora convinto che possiamo raggiungere un accordo», Gorbaciov risponde: «Non so cos'altro offrirle». Reagan salì in macchina. Era distrutto. Era seduto dietro con un'aria dimessa. Non ho mai visto nessuno così distrutto. Don? Mi disse: «Don, mancava tanto così». Alzò la mano sinistra con l'indice e il pollice. Ci saremmo potuti finalmente liberare di quei dannati missili, ma lui insisteva che dovevamo limitare il nostro scudo spaziale e io non potevo farlo. Ho promesso agli americani che non vi avrei mai rinunciato. Non potevo. L'incontro di Reykjavik viene unanimemente considerato un fallimento, ma Gorbaciov invece ne sottolinea i lati positivi. Dissi ai giornalisti che Reykjavik era stato un momento di svolta, che ero certo che Reykjavik avrebbe portato a dei risultati. Ed è esattamente quello che è successo. Senza Reykjavik il processo che poi ha condotto al primo trattato e a quelli che seguirono non sarebbe mai stato possibile. Un mese dopo l'incontro di Reykjavik, il 3 novembre dell'86, un giornale di Beirut pubblica una notizia clamorosa. La Casa Bianca avrebbe proposto all'Iran una fornitura di armi in cambio della liberazione degli ostaggi. I soldi ottenuti dalla vendita di quelle armi sarebbero stati dirottati illegalmente ai Contras in Nicaragua. Esplode lo scandalo Iran Contras. A seguito delle voci su una nostra volontà di scambiare armi con gli ostaggi, vorrei ancora una volta dirvi che non c'è stato, ripeto, non c'è stato alcun accordo di scambio e che mai ci sarà. Delle due l'una: o Reagan sapeva dei fondi ai Contras e allora è nei guai, oppure non ne sapeva nulla e allora vuol dire che non ha nessun controllo del suo staff. Inverno 1987. La Casa Bianca deve provare a tirar fuori Reagan dalla crisi peggiore della sua presidenza. Don Reagan ritiene che il modo migliore sia far tornare il presidente fra la gente, di far nuovamente leva sul suo fascino di grande comunicatore. Ma Reagan sta riprendendosi a fatica da un'altra grave operazione alla prostata. Nancy ordina il riposo assoluto. 26 febbraio 1987. La commissione Tower da lui nominata presenta il suo rapporto. Reagan è sbalordito. Il presidente risulta responsabile di un'errata gestione e di aver venduto armi in cambio degli ostaggi. Reagan, ciò nonostante, continua a negare ogni coinvolgimento. Uno dei primi obiettivi che il nuovo capo staff della Casa Bianca, Howard Baker, si prefigge per riscattare l'immagine del presidente è proprio convincerlo ad ammettere i suoi errori. Alcuni mesi fa ho detto agli americani che non ho mai scambiato armi per liberare gli ostaggi. Il mio cuore ancora mi dice che questo è vero. Ma la realtà mi costringe a riconoscere l'opposto. Come la commissione Tower ha dimostrato, quella che era iniziata come un'operazione strategica in Iran ha via via cambiato volto e ha finito per essere uno scambio di armi per gli ostaggi. Quello che è successo va contro i miei principi e contro la politica di questa amministrazione. Non era questo quello che avevamo in mente. Ci sono motivi per cui è successo, ma non scuse. È stato un errore. Ma i guai per la Casa Bianca non sono finiti, anzi sono appena iniziati. Il 19 ottobre dell'87, il lunedì nero dell'economia, è il giorno del crollo della borsa di Wall Street. L'economia va a picco e intanto i tagli al welfare hanno provocato un numero enorme di senza tetto. E Reagan viene criticato anche per la nuova emergenza sanitaria, l'emergenza dell'AIDS, che a partire dalla metà degli anni Ottanta miete migliaia e migliaia di vittime. Ma Reagan ha ancora un asso nella manica: i suoi rapporti con Gorbaciov e le nuove speranze di una distensione globale. 8 dicembre 1987. Gorbaciov è a Washington per siglare un accordo sul bando dei missili a medio raggio in Europa. Il leader sovietico ha accettato quella opzione zero così avversata 6 anni prima. A Reykjavik, Gorbaciov ha chiesto l'abbandono del progetto dello scudo spaziale in cambio della riduzione degli armamenti. Ora però ha bisogno di un accordo. Per questo accetta le condizioni di Reagan. Per la prima volta nell'era nucleare, America e Russia si accordano per ridurre gli armamenti. Un altro trattato verrà siglato dal presidente Bush per dimezzare i missili a lungo raggio. I risultati sono talmente positivi da rendere risibili le richieste del movimento pacifista di qualche anno prima. 29 maggio 1988, Reagan è a Mosca. La sua visita segna l'inizio della fine della Guerra Fredda. Lo stesso Reagan è sorpreso di vedere come tutto cambi così velocemente. Sempre nel maggio 1988, Gorbaciov avvia il ritiro dall'Afghanistan. Un anno più tardi, il 5 giugno 1989, Lech Walesa viene eletto presidente della Polonia. Gorbaciov si astiene da ogni interferenza. Proprio come Reagan ha previsto, la Polonia innesca un effetto domino in tutta l'Europa dell'Est. Il 15 novembre 1989 cade il muro di Berlino. 25 febbraio 1990, le prime elezioni libere in Nicaragua. I sandinisti perdono il potere. Mikhail Gorbaciov, la migliore risposta del sistema sovietico alle sfide lanciate da Ronald Reagan, non riesce a controllare le riforme da lui stesso avviate. Il 25 dicembre 1991 il Cremlino avvia il dissolvimento dell'Unione Sovietica. Ciò che Reagan aveva previsto davanti al Parlamento inglese diviene realtà. L'Unione Sovietica viene consegnata alla pattumiera della storia. Il 20 gennaio dell'89, dopo 8 anni, Reagan lascia la Casa Bianca. È la fine di una carriera politica segnata da scandali e trionfi, da sogni e ossessioni. Il 4 novembre del 1994 scrive una lettera ai suoi cittadini. Miei cari concittadini, mi è stato recentemente riferito che sono uno tra il milione di americani cui è stata diagnosticata la sindrome di Alzheimer. Dopo averlo saputo, io e Nancy ci siamo chiesti se avremmo dovuto tenere la notizia privata o al contrario renderla pubblica. Abbiamo ritenuto che fosse giusto condividerla con tutti voi. Aprendo il nostro cuore e usando la più completa trasparenza, speriamo di promuovere una maggiore coscienza di questa condizione. Mario Secchi, ma alla fine le famose Reaganomics ebbero gli effetti sperati? Dunque, per i contribuenti fu un'arma a doppio taglio in realtà, nel senso che il taglio del 25% dell'imposta sul reddito ovviamente fu salutata con gioia e manifestazioni di tripudio, la riduzione dei tassi di interesse pure, però poi l'altro volto della medaglia era che alla fine c'è stato un forte aumento delle spese militari dovuto alla sua politica estera, del deficit e del debito pubblico, cose che sono continuate, diciamo, all'ordine del giorno dell'agenda della Casa Bianca oggi. Come sempre. Però aveva ragione, diciamo, in quel momento. Assolutamente sì, perché l'economia americana veniva dal disastro della presidenza Carter. C'era un clima di fatto di depressione che non era solo economico, ma soprattutto nel morale del tipico imprenditore americano. Reagan in questo fu indubbiamente abile. Taglio fiscale e rilancio dell'industria. Qual è stato nel lungo termine, nel lungo periodo, l'effetto negativo di quella deregulation? Dunque, quella deregulation di fatto è diventato un dogma perfino dei democratici, perché non riguardava ovviamente solo l'aspetto fiscale, ma anche quello regolatorio. Il totem che voleva abbattere Reagan era quello dello Stato, chiaramente. Tutto ciò di cui si occupava il governo federale a Reagan non piaceva. La sua idea era quella che le mani pubbliche dovessero ritirarsi da quasi tutta l'attività economica, cosa che era molto dichiarata da lui, che era noto per la sua abilità oratoria nei discorsi e nei programmi politici, un po' meno poi nell'attività reale del governo. Ma questo effetto si è visto da Clinton in poi ancora di più. Basti immaginare che cosa poi è scaturito nella crisi finanziaria del 2008. È figlia di un lungo percorso di riforme fatte e altre mancate. Certamente la deregulation ha provocato dei danni, non ci sono dubbi. Dalla guerra dura e intransigente all'impero del male del comunismo, fino a Reykjavik, all'incontro con Gorbaciov e quindi la distensione. Quando Reagan ha cambiato la linea dura? Ma in realtà lui non è che l'ha cambiata, lui non ha mai cambiato la linea dura. Lui pensava di riaffermare la supremazia degli Stati Uniti nel mondo, che con Carter aveva subito dei colpi durissimi. Per farlo lui aveva promosso un doppio binario sostanzialmente. Da una parte cercare di aprire un dialogo con i russi, un dialogo molto duro se vuoi, ma comunque un canale sempre aperto. Dall'altro in realtà moltiplicava gli sforzi del Pentagono in tutte le direzioni, non ultimo quello delle famose guerre stellari. Ora, qua gli storici in realtà si dividono, molti sostengono che Reagan fu il propulsore per portare poi il grande impero russo alla fine, quindi la fine dell'Unione Sovietica sì. È stata generata ricordato, dall'azione sì, per di politica quel... estera di Reagan. Altri invece sostengono che il disfacimento dell'URSS era già in corso e che Reagan in qualche modo lo anticipò soltanto. È un dibattito molto interessante che varrebbe la pena di guardare oggi, soprattutto alla luce delle tensioni in corso tra la Russia e gli Stati Uniti. Per arrivare a dire? Ma per arrivare a dire che alla fine tu la pace con chi la fai? Con il nemico. E il futuro con chi lo costruisci? Con il nemico. Quindi l'idea di stabilire una fortissima contrapposizione, addirittura senza di fatto avere più un canale. Però questo lo fece Reagan o no? Cioè, perché tu parli di doppio binario. Beh, lo fece, certo che lo fece. Alla fine diciamo che il combinato disposto della crisi economica dell'Unione Sovietica e la sua fermezza diplomatica portarono a risultati buoni almeno per il disarmo nucleare, su questo non ci sono dubbi. C'è da rimpiangere quell'America? No. Perché? So di dire una cosa che a molti non piace, ma io penso di no. Se non una forza di carattere che nell'attuale governance mondiale, Obama compreso, manca. A mio avviso manca. Cioè Reagan prendeva una strada giusto sbagliata, però era quella. Invece Obama, ahimè, ha una politica che è una sorta di pendolo, di flip-flop, sì. Che non fa bene al, diciamo, al nuovo ordine mondiale, anzi, mi pare che finora abbia prodotto un pericoloso disordine mondiale. Naturalmente, siccome manca ancora del tempo alla scadenza del mandato di Obama, il giudizio si darà alla fine. Grazie Mario Secchi. Grazie a voi.